Effetto Mondo. Eccoci qua con Giulia Crivelli. Ciao. Buongiorno, Giulia. Buongiorno, ma che bella la storia dell'edicola a tre Hai ruote. Visto? Anche perché, sai, voi della radio, voi avete un mezzo che è un Highlander, è sopravvissuto a tutto. È vero. No? Si dava la radio per morta quando è arrivata la televisione. Sempre si è data per morta. Invece i giornali, non so, non se la passano tanto bene. Ieri scherzavo con la ragazza giovane, tra l'altro, che gestisce l'edicola qua di via Monterosa. Sì. Dico, ma noi giornalisti che amiamo la carta, che siamo nati con la carta, e voi edicolanti, che fine faremo? Dobbiamo fare un'alleanza, un'alleanza, una santa alleanza per salvare. Ma sì, l'esperienza insegna che tutte le crisi sono state poi superate con ridimensionamenti, però nessuno è mai sparito effettivamente. No, per cui... cioè, l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che proprio il modello di business che nel caso dei giornali di carta deve cambiare, perché in effetti la maggior parte degli introiti veniva dalle vendite da edicola, i giornali non si vendono più, le edicole chiudono, quindi è un po' un circolo vizioso. Persino a Milano in centro alla domenica, come dicevi tu, è difficile ormai e trovare un'edicola aperta. Eppure quindi di pubblico forza, ce n'è forza. Ancora, esatto. Allora, da cosa cominciamo, no, Giulia? Iniziamo, ecco, per l'appunto da questa fotografia che soltanto secondo me ancora le prime pagine dei giornali di carta riescono a dare in modo così efficace, di questa notizia che è stata un breaking news ieri, cioè del fatto che secondo l'intelligence americana e britannica l'aereo caduto e che ha fatto 176 vittime mercoledì è stato abbattuto da un missile iraniano. E notizia nella notizia, qui veramente è un po', se vuoi, non l'ironia ma gli scherzi della storia, perché sarebbe stato veramente un errore. E infatti persino Trump si è astenuto dall'approfittare di questo colpo di scena, ha detto in modo insolitamente, anche dai toni neutro per lui, che appunto si è trattato di un errore della contraerea iraniana. Naturalmente quanto di più tragico si possa immaginare, è la prima pagina del New York Times con una foto delle persone che rendono omaggio alle vittime, scattata in Canada, perché come forse avrete sentito quasi 70 delle persone a bordo erano canadesi, e quindi tutti i quotidiani canadesi che non guardiamo mai, però insomma oggi però hai annunciato la breaking, vogliamo sentirlo l'audio, poi vai avanti. Abbiamo l'audio? Sì, o no? Sì, credo, sentiamo. Proprio di sì, sentiamo. Some dramatic breaking news just into CNN on that Ukrainian Airlines flight that crashed, killing 176 people. Remember, this happened just after it took off in Iran on Wednesday. Let's get straight to the Pentagon and CNN's Barbara Starr. Barbara, what do we know? Così abbiamo avuto un esempio di come si fa una breaking news in stile anglosassone. Che poi aveva prontissimo questo anchorman della CNN, la corrispondente dalla Casa Bianca, che diceva in effetti anche qui ci è appena stato detto questo. Naturalmente ci saranno molti altri dettagli da chiarire, e ricordiamo che l'Iran, come dicevi anche tu nei titoli, continua a negare che sia questa la causa. Però per esempio il Toronto Sun, quotidiano di Toronto, titola "Plane was shot down", quindi l'aereo è stato abbattuto, e il Toronto Star anche dice era un doomed jetliner, un aereo maledetto con il destino segnato, ma segnato dal missile, non da un malfunzionamento tecnico. Quindi questo è un po'. Poi i giornali canadesi hanno anche un pochino di Meghan, di questa Megxit, ormai è già stata ribattezzata, perché come sapete, ecco, spieghiamo il legame tra Meghan e il Canada. Lei cos'è, canadese? Io non lei so nulla di questa gente. Canadese. Quindi il bambino, tra l'altro, dopo loro avevano trascorso le vacanze di Natale in Canada, il bambino era rimasto lì, e lei, quindi la mamma è tornata lì, e è rimasto di qua con le grane, è rimasto di qui con molte grane. Tutti i quotidiani britannici, in realtà, come vi dicevo, anche il Guardian in prima pagina ha la notizia dell'abbattimento per sbaglio, si pensa a questo punto dell'aereo. Però per esempio Meghan flees to Canada. To flee vuol dire proprio scappare, ma come si scappa dalla prigione, quindi Meghan se ne scappa in Canada. Il Times titola "Charles threatens to halt Harry and Meghan's cash", cioè minaccia di tagliargli lo stipendio, circa 2 milioni, vedremo come finirà questo. E tra l'altro è divertente perché tutti hanno scelto di pubblicare delle foto dove invece sembrava tutto andare bene, no? Che foto di famiglia. Vi dicevo, il Guardian, titolo principale sul jet ucraino, della compagnia aerea ucraina, e però il titolo è i i reali, quelli senior, diciamo, quelli veramente senior, hanno in testa un piano per scramble, cioè per fare a pezzi, come si fanno le scrambled eggs, del progetto di Harry e Meghan. Se sarà solo una questione finanziaria, sarà anche un po' triste. E poi c'è questa espressione che ho sentito decine di volte stamattina nelle rassegne stampa dei quotidiani britannici, che io trovo personalmente terribile, ed è che essere un reale è come essere vergine, non puoi essere solo un pochino. Perché questa è molto criticata, questo atteggiamento che loro hanno di fare un passo indietro, ma di comunque fare alcune cose, non farne altre, la avere i soldi. La botte piena, esatto. Casa mia, ecco, si noi dice. Diciamo così, lo trovo molto meglio del paragone con la verginità. Ecco. No, senti, c'è dell'altro su Harry e Meghan? No, sì, a parte che Carlo appunto forse non gli dà la paghetta, ma poi... parliamo di cifre enormi. Tu dici è squallido che si trasformi tutta una vicenda finanziaria, ma le cifre in ballo sono enormi. Sì, poi devo dirti, fa molto effetto anche qui, l'ho capito ascoltando i commenti anche di giornalisti autorevoli. Sappiamo tutti che la regina ultra novantenne, lei ha proprio fatto del duty, del dovere, la sua vita, cioè ha consacrato la sua vita al dovere di quello essere... che non vuol fare Harry. Esatto, abbiamo capito. Esatto. E quindi, infatti sui giornali tedeschi viene addirittura paragonato con questo titolo, sì. Adele verzichtet, che io dicevo, cosa c'entra Adele? Pensavo alla cantante. No, assolutamente, è il titolo di un romanzo giallo che ha avuto tantissimo successo in Germania, che raccontava appunto di una coppia che vuole sparire per ritrovare la propria privacy. Quindi è piaciuta molto in realtà ai giornali tedeschi questa cosa. La Welt, per esempio... È una scelta forse al passo con, non dico coi tempi, ma l'idea di godersi la propria ricchezza ma nella privacy. E titola Sissi in so frei, sono così liberi, insomma, ed è una foto sorridente, bucolica di Harry e Meghan. Comunque abbiamo già il neologismo, Megxit. Va bene, ti tiro via da tutta questa bella leggerezza, perché invece mi segnali che in Australia ci sono delle agitazioni contro il Premier, che sta diventando un po'... Sì, perché un po', vabbè, la vicenda, il fatto che fosse andato comunque in vacanza all'inizio dell'emergenza incendi, però da oggi ci sono delle manifestazioni molto importanti in tutte le città, sono pacifiche, sono un po' i Fridays for Future, soprattutto ci saranno giovani in piazza, però si chiede al governo, anche se non c'è ancora un programma, siamo un po' le nostre sardine, cioè chiedono che si riconsideri seriamente che una delle cause, come ci diceva ieri il ricercatore, è in effetti il riscaldamento globale, l'emergenza climatica, questa eccezionale siccità, e che quindi il Premier smetta di fare il negazionista sui cambiamenti climatici sulla scia di Donald Trump. Vogliamo sentire la viva voce dei protagonisti anche sulle vicende americane? Sì, perché lì, come sapete, c'è anche questo nuovo atto di forza di Nancy Pelosi, che tra l'altro è sulla copertina di Time di questa settimana, che ha deciso, insomma, che d'ora in poi, se Trump dovrà prendere delle decisioni come quella di assassinare un generale di un paese straniero, dovrà prima chiederlo al Congresso, come sta scritto nella Costituzione. E sentiamo come commenta questa scelta di Nancy Pelosi il leader dei repubblicani alla Camera. That they want to curve the ability of the president to react when more than 600 Americans have been killed. Qui fa l'elenco delle ragioni perché si continua a chiedere conto a Donald Trump di dire qual era questo pericolo imminente che ha portato alla decisione di mandare un drone a ammazzare Soleimani, e qui fa l'elenco: l'ambasciata attaccata in Iraq, i soldati americani uccisi, e poi perché per ora sono nascosti dietro la scusa del non possiamo rivelare dettagli per non mettere in pericolo altre persone, altri piani per uccidere altri americani. E sentiamo come se la prende con Nancy Pelosi, perché ha appunto disapprovato, lei e molti altri, le modalità dell'attacco a Soleimani. He's a bad person because he led us against the embassy. He's a bad person. Dice Soleimani, io non voglio sentire frasi come Soleimani is a bad guy but, cioè Soleimani era un cattivo però. Quindi Soleimani is a bad guy. Soleimani per noi, per il presidente Trump, per me, per tutta l'amministrazione è un bad guy, un cattivo. Questo è il linguaggio che usano, perché ha ucciso molti iracheni, perché ha ucciso tantissimi americani, perché faceva tantissimi altri piani di annientamento degli americani nell'area, e quindi andava ucciso, ma testuale. Giulia, Non so se ci sono altre notizie. Guarda, vi segnalo su questo perché secondo me è la sintesi perfetta. La copertina dell'Economist, tutta in toni arancioni come di fuoco, il ritratto di Soleimani, un mirino intorno a lui dove ci sono tutti i paesi del Medio Oriente e il titolo Master Stroke or Madness, cioè un colpo da maestro, l'uccidere Soleimani, o un accesso di follia, perché appunto le conseguenze sono ancora tutte da vedere. Come potete immaginare, in Francia c'è anche molto spazio a questa ripresa dei colloqui dei tavoli di confronto sulla riforma delle pensioni, ma nessuna novità. La telenovela pensioni prosegue. Ci attende per la settimana prossima. Abbiamo ancora qualche secondo in realtà per chiudere. Ci sono un paio di segnalazioni dalla Germania, forse, ma anche sulla questione di sanità inglese. Scegli tu. Sì, della sanità inglese a me fa molta impressione, cioè i medici donna britannici di qualsiasi specialità guadagnano 40.000 sterline in meno rispetto ai loro colleghi uomini, cioè circa il 40% in meno. Il che a me basterebbe già la differenza. Che comunque guadagnano bene. Cioè sì, noi. Invece dalla Germania, due secondi proprio, abbiamo parlato ieri delle preoccupazioni della presa che può avere l'uomo forte Erdogan sui giovani turchi che vivono in Germania o sono nati in Germania. Adesso c'è la notizia che la Turchia sta facendo molti investimenti per costruire delle scuole secondarie in Germania. Quindi sai, siccome la scuola è importantissima, non scuole religiose, voglio dire, probabilmente sì, sono previsti anche ore di religione, però è proprio una scuola dove si viene immersi nella cultura turca e anche nella religione musulmana, che è di fatto la religione di Stato in Turchia. Grazie Giulia, ci sentiamo la settimana prossima con te e con gli ascoltatori naturalmente per Effetto Giorno. È tutto anche per la puntata di oggi, con Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Noi ci sentiamo tra poco con l'aggiornamento di GR24. Ciao da Alessio Maurizi.